questo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Il DNA non mente. A 19 anni debutta con un album tutto realizzato da lei, monolocale. Porta avanti una preziosa tradizione di famiglia. Angelina Mango. Allora, queste canzoni sono nate tutte quante durante il periodo del primo lockdown. Sono nate, sì, al 100% da me, le ho scritte, registrate, realizzate, prodotte qui al piano elettrico a casa mia. E quindi sono state proprio un racconto che andava avanti durante i miei giorni del lockdown, che ovviamente non riguardava il lockdown, questo racconto riguardava me. Sicuramente sono una persona che prova tanto, cioè quando provo una sensazione la provo al massimo. Quindi forse per quello, forse sono molto intensa, diciamo, e quindi l'unico modo che ho per sviare questa intensità e per non scoppiare è raccontarla in qualche modo, scrivendo, suonando, disegnando, non lo so. Quando non sto male preferisco fare che dire. Mi piace ascoltare, non andare mai a dormire. Un bicchiere con Cami mentre guardiamo la bottiglia finire. Forse distruggo le cose per poterne fare canzoni. Forse cantare, sento che ci sono tante vie che stai esplorando. Sì, perché mi piace che tu mi abbia fatto questa domanda, perché io noto che tante volte la gente si concentra molto sul canto, sul bel canto, dove arrivi, quante variazioni fai, quante cose, poi non so manco come si chiamano, figurati, perché non lo so. Ma la cosa che mi piace di questo progetto è che mi ha fatto scoprire delle cose della mia voce che non avevo mai notato. Io vivo in un monolocale, no? Perché se mi veniva ispirazione alle 2 di notte dovevo fare tutto nel silenzio più totale, e quindi ho imparato a cantare a bassa voce e alzare poi il volume della traccia per provare. La mattina dopo, ad esempio, questo mi è successo in Sono aggrappata a te, che la notte avevo questo bisogno impellente di scrivere questa canzone, la mattina dopo l'ho risentita e ho detto è fortissimo, io avevo intenzione di rifare il canto, ma poi l'ho sentito ed era perfetto. Da lì ho iniziato a provare a cantare in questo modo e ho trovato la semplicità più assoluta nel farlo. E anche mi sembra molto più diretto, mi sembra di parlare, non di cantare. E credo che funzioni questo. C'è molta Milano in quest'album. Io mi sono innamorata di Milano perché mi ha accolto, mi ha proprio spiegato come affrontare la vita, quella da adulti. E poi a livello di sensazioni, di ispirazione, Milano è uno stimolo continuo per me. Angelina Mango, nome e cognome. Non hai mai avuto la tentazione di dire ci metto solo il nome? In realtà ho avuto la tentazione di dire ci metto anche il cognome e alla fine l'ho fatto. Perché in realtà tutto dall'inizio, quando ho iniziato a pubblicare le prime cose, io mi chiamavo Nina, perché i miei amici mi chiamano Nina. Poi ho cambiato e ho detto, ma scusami, io scrivo canzoni, parlo di me. Cioè, quando mi chiamavano a scuola, mi chiamavano Mango Angelina, non Angelina, non Nina. E Mango Angelina non è solo il mio nome di adesso, ma è la mia storia, chi sono adesso, chi ero prima. Ed è importante per me, io non posso rinnegare nulla. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Angelina Mango. Ancora un saluto da Marta Cagnola.